Di Hiroshima, un duro alla maniera di John Wayne, reba scuri, lavoro e la guerra, ma ne so che quel tipo sulla terra. Attenzione canadici, non c'è nessuno cambio, già ci siete, io i stupidini, un italiano istuppatene. Ciao Mario, buonasera. Uno schifo Mario, uno schifo. Basso di radio, il segnale c'è ma basso di radio. No, il segnale è buono, il segnale è buono. È la radio del portatile che fa schifo. Non è che... capito. Il segnale è buono, l'antenna sta andando bene. È la radio del portatile che non è delle migliori, diciamo. È un po' bassa, un po' bassa, un po' pastosa. Ecco, bravo, cambia. Poi la mamma è lì, Pink Floyd. E adesso? Un'altra cosa adesso. Ma questo è quello serio. Sì, è serio rispetto a... questo è rispetto al portatile, ma cosa è successo? Ho ordinato praticamente per importare l'altro portatile che ho ordinato una presa con accendisigari, no? dell'altro portatile, diciamo, mi è arrivato quest'altro baracchino insieme a 17 euro, mi hanno dato un baracchino con tutto l'attacco nuovo, con la scatola, ci vedi che tu sono sbagliato. Però come dici tu, la modulazione non è neanche. Sì, ma infatti, qua te ne frega. Va benissimo. E stanno sbagliando ultimamente, anch'io ho comprato un prodotto e oggi me ne sono arrivati tre uguali. E va bene, mi servono e me li tengo. È tutto buono, la provvidenza, poi siamo vicino a Natale, che vuoi di più? Meglio di così? E infatti, zio Amazon ci vuole bene. Assolutamente. Ma guarda, non me lo aspettavo, proprio lei sta paura. Quei portatili che, vabbè, il PMI HP62, nuovo di zecca, e ancora ce l'ho pagato. Io ho pagato il coso qua, il coso per la macchina, però mi è arrivato anche parecchio. Vabbè, sarà un granché, però alla fine buttalo via. 50 euro si vende sempre, alla grande. Vabbè, alla grande, 50 euro fa un super comodo. Magari uno si prende anche un'antenna o 50 euro. Hai capito? E così insomma va. Mancano solo noi due, tutti all'ascolto qui stasera, sul 10. Non lo so io, ma neppure sento che qualcuno si sta ascoltando. Sì, adesso entrano. Stanno tutti mangiando il panino con la Nutella. A quest'ora? Io mi sto già preparando le tagliatelle ieri, tra poco mangio. E dopo chiaramente la mangiata ce ne andiamo a letto. Guardo il film e poi via. Che pistaccia, guarda. Aspetta un attimo, c'è un casino qua, un attimo. Sono qua Mario, sono qua. Che bella, ma ieri sera poi cosa è successo? Che è mancata la luce perché avevo tutto sentito. Ah sì, mi scuso, a proposito, ieri veniva, mancava, poi all'ultimo ti ho spento tutto perché ho detto qua va a finire, mi brucia l'apparato. Ehi, ti scusi, figurati, non c'è problema, la radio non ce ne immagina. Non c'è problema, sono cose che capitano. Ma anche qui c'è stato un periodo che non ci mancava spesso, poi da quando hanno cambiato la cabina, qua dei carabinieri, gli Antonelli, che poi sono andati a prendere non solo la luce dall'altra parte, sicuramente una cabina più affidabile, adesso è migliorato molto, perché prima mancava spesso la luce, adesso grazie a Dio, insomma, non abbiamo Buonasera. Ecco qua, tu ecco un altro. Ciao Gavi. Buonasera. Gavino, buonasera, di sotto immagino, no? Di Porto Torres, ma sta la provincia 25, sì. Diciamo mezzo e mezzo. Buonasera Eugenio, buonasera Mario. Buonasera anche l'ascolto. Avanti Eugenio. E allora, finito a lavorare? Yes, sono entrato 10 minuti fa. 10 minuti fa oggi sono entrato. Uia! E va bene, dai, adesso ci rilassiamo un pochino. Adesso ci rilassiamo un po'. Ecco. Ecco un altro, avanti. Ciao Eugenio, ciao Gavino. E poi non so se c'è qualcun altro, ho appena acceso. Eugenio, ma qual è un controllo di radio? La radio fai schifo come sempre, va benissimo. Vero? Va bene. Davi, tu come mi ascolti? Questo è il microfono di ieri, ho fatto qualche accorgimento che Eugenio mi ha detto faceva schifo. Ah, è quello di ieri, allora è migliorato, adesso questa è la tua, bella, bella fresca, bella potente, e allora l'hai aggiustato. Sì, sì, quella di ieri Eugenio, ho messo l'altro pedale di chitarra. Bella, radio corposissima, bella, bella, buonasera. Ciao Davide, non so, c'è qualche altro ancora? Sì, buonasera, ci sono io, buonasera Mario Pototorre, se non ho capito chi sei, modulazione buona, dai, confronto segnale, tieni presente che io molto pluralenda, però si capisce benissimo quello che dice, praticamente modulazione, non so di ieri, della tua modulazione, ma quella di oggi è ottima, direi, non c'è male, avanti. Ok, ciao Mario, forse non ti ho mai ascoltato, forse questa è la prima volta, comunque dai, Massimiliano, bulldozer qua, coordinate i punti, dai. Capo Massimiliano, sì, penso anch'io la prima volta, beh comunque ben sentito per la prima, dai. Molto bene, vai, capito. Oh Massimiliano, ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Qual è l'altrimer di questo apparecchio per la modulazione? Allora, tu c'hai il 3009, giusto? Sì, questo è il 3009. Non so se te li vuoi segnare in un pezzo di penna, un pezzo di carta, qualcosa, così te li ricordi. Yes, prendo appunto. Ok, là. Inizia a prenderti la penna e la carta e poi ti dico cos'hai. Vai Eugenio, nel frattempo, quindi mi ascolti meglio, là? No, no, ti ascolto bene, ti ascolto bene. Se il microfono di ieri, hai fatto miracoli, perché ieri eri tutto hai un patato in bocca, ma oggi è perfetta, oggi è la tua modulazione. Il telefono vicino ce l'hai oggi? Sì, manda. Attenzione che mudiani. Oh ciao Tino, e beh Gavi, sei pronto? Yes. Ciao, buonasera, ciao a tutti. Ciao T, scusa un secondo che gli do un'info a Gavino. Allora, VR14 è la modulazione. Ok, VR14. Poi VR16 è la radio. Ok, VR16, VR13 sono i watt. Perfetto, perfetto. Mi interessavano i primi due sono quelli importanti, noi vado a lasciare qui. Massimiliano, senti questo MB+4 con una capsula Shure, com'è? Buono, sembra un Turner più 3. E gli ho messo la capsula dell'SM58 Shure, dal microfono dinamico. Buonasera Tino. Niente, oggi lo sto provando perché non l'ho fatto ieri notte, l'ho finito e lo sto provando adesso. Ciao a tutti, cosa la così ci sentiamo praticamente della centrale nel QTH piccolo e niente. Ok, oggi hai visto cosa ho fatto, sì? Sì, sì, ciao Tino, buonasera, sì, ho visto, ma vabbè, uguale al mio, dai. Sì, sì, però in più c'è quello giallo. Sì, in più c'è quello giallo, sì. Ok, dai, riprenditi che io mi assento un secondo. Forse abbiamo parlato in due, ma sto facendo una cosina al PC, rimango un attimo in Code X, dai, fate voi, dai. Al limite ci sentiamo più tardi. Sì, non ci lasciare. No, sono qua, 5 minuti, devo guardare le 2000 che mi interessano. Dopodiché riprendo, dai. Va bene. Oh, oggi a che andate? Dimmi. Ascolta, ma la radio sempre con quella cosa di ieri ce l'hai? Sempre con la manopola regolata come ieri? Sì, sempre come ieri, sì. Che mi sta segnando, aspetta, che bello caldo, tutto il giorno acceso, aspetta. Sì, 20 watt. Senti che è bella che è. Cioè senti, è bella, bella, bella, bella. Ma io lo stavo sempre facendo andare a 10, 15. Poi abbassavo a 10, tanto mi sentivano tutti lo stesso. Cosa le fa? Anzi, se non la sfrutti va anche meglio, no? Non è al massimo. Cioè è a mezza forza e va bene così. Falla andare. E poi te la vendi se la usano gli altri. No, ma non posso aumentare più tanto perché ho un alimentatore Sadelta che se aumento tutto non ce la fa, eppure era 50 ampere, però mi sa tanto che è burdo. Io ho un 8 cos'è? 1680, 40 ampere, magari che mi buoni moto furgone. Io me l'avevo comprato su internet, l'ho anche pagato parecchio, però se aumento tutto non ce la fa, ci ho provato, non ce la fa, si abbassa anche la luce dell'apparato. Va bene, riprendi Mario, e tu che alimentatore usi, Mario? Io uso un switching da 25 ampere da 16, che è quello praticamente con i due strumenti, mi piacerebbe averne uno lineare, con il trasformatore, con un bello, quelli grossi che pesanti che andavano a volta. Però dai, comodo anche questo, non da problemi, insomma, perlomeno finora mi ha accompagnato, ce l'ho anche da diversi anni, sicuramente che abbia 10, 12, 13 anni, una roba di genere, non ricordo più quando l'ho preso, ma ne ha da vendere degli anni. E va ancora bene, finché funziona lo teniamo. Signori, comunque io rimango in ascolto, scusate, ma devo per forza mettermi a cucinare, altrimenti stasera non si mangia. Inizio a preparare tutto. Vi ascolto volentieri, vi saluto comunque. Ciao Dino, anche a te, buona serata, ben sentito. E di nuovo a te, Gabino, fai pure. Sì, buona cena Mario. Mi raccomando, non mangiare troppo, che altrimenti poi è un casino. Poi oggi, ma ha cambiato qualcosa? Aspetta, ciao Mario, ciao, scusa, se è poc'anzi non ti ho salutato, ciao Mario. Ti sento piano però, dimmi. Non mi ascolti? Sì, ti ascolto, però non arrivi come gli altri, faccio un po' fatica perché c'ho un po' di colpa tua, vai. Vabbè, io sono piccolino, cosa vuoi farci? Non ce la faccio arrivare, comunque. Ti mando i saluti, Mario. Ah, ok. Penso che tu mi hai detto che mi mandi i saluti, giusto? Papa Roger. Ah, ok, c'ho un casino di rumore qua, veramente. È una cosa incredibile, delle volte mi passa anche la voglia di modulare. Va bene, saluti anche a te comunque, a tutti gli altri, naturalmente, che sono a Roma. Di nuovo a te, Eugenio, vai, buona serata a tutti. La storia è un bel strano, È un bel strano questa storia del piace per il QRM a manetto. Troppo strano. Vabbè, ma io non so neanche da dove sta modulando, però eccola qua. Sembra strano che non mi ascolti comunque. A Porto Torres, sta modulando a Porto Torres, capito? Nel suo palazzo, non lo so, mi sembra strano, è l'antenna che non serve. C'ha sempre il QRM a manetta. Dovrebbe cambiarsi l'antenna per vedere un po' se cala, non so. No, aspetta, ti spiego, devo avere qualcosa qui, deve essere qualche centralina, qualcosa che genera rumore, hai capito? Aspetta Mario, che forse non mi ascolti ancora. Come? Ancora non mi ascolti. Ti ascolto bene. Pensavo che non mi ascoltavi ora, per quello ho attaccato l'aiutino. Con l'altro magari non mi sentivi, con questo mi ascolti, va bene, dai. Te li do i saluti, Mario, che poc'anzi sono entrato ma non ho avuto modo di salutarti. Ok, grazie mille per i saluti, di cambio, State bene, vado perché mi sta bollendo l'acqua e ci devo buttare la pasta. Ciao. Tino. Dimmela. Com'è questa Asturia? Fa un passeggio più lungo, un po' tirata mi sembra, ma credo come la mia, C'è un po' tirata? No, pensavo che era un pochino saturina. No, va bene, tieni conto che ti sto ascoltando con un 5,5. Eugenio, sai come sono, saturo? Oh Gabriele, ma io non ho il tuo numero di cellulare, come facciamo a darti un messaggio massimo? Segna a dire, se io gli fanno della mano qualcuno. Cosa hai attaccato ora, ragazzi? Niente, gli ho sollevato un pochino il watt e la modulazione che ho aperto. Ah, bene, no, vabbè, io ti dovrei dare il controllo con l'altro, adesso questo è... c'è il mio cane. Fermo, mi sta spingendo dal mobile dove ho la radio. No, non mi interessa il segnale, mi interessa la radio, se è bella, se è corposa, se va bene. Diciamo che poc'anzi ti stavo ascoltando 4,54, adesso sono con 5,5 e quindi cambia un pochino la ricezione. Vabbè, aspetta che passo con l'altro. Oggi per il numero te lo lascio quando ci vediamo. Sei d'accordo che ti avevo così ti fai una foto che mi hanno mandato, Eia, ce l'ha, non lo so, se ce l'ha Tino il tuo numero o te lo puoi girare, perché lui ce l'ha il mio. No, io glielo posso mandare, credo, su Messenger, se non sbaglio. Aspetta, ci provo, io già ci provo. Non mi ha mandato su Messenger il numero. Vediamo un po' se... non stavo uscendo, vero? Sì, che stai uscendo. Allora basso, perché non segnavo cose, adesso come ho cambiato la radio. Vediamo un attimo, aspetta un attimo. Terrorizzelli. Sotto con questo coso, allora. 1, 2, 3, 4, 5, modulati sono 104. Ma può sì. E a chi non può sì? Ma vabbè, col non lo so. 140 quando pompa, Puglia, mamma. Ah, mamma, d'olio. Sono compresso, Luigi, da te? No, io ti ascolto come sempre. Tutto a te, cavo. Cosa si scaccia a vitelli? Tutto a te, che ho messo, guarda. Se non è satura, va bene. 100... su 100... quasi 110 watt. Ma fai un coso più lungo, perché ho sentito un leggero strappo. Quasi 110 watt, vedi? Se la fanno sta, glielo mettiamo un pezzo di scotch. No, si sente che sta pompando, è leggermente compressa con un lazzo. È compressa, lasciamo pure. Allora, se è compressa gliela diminuiamo un pochino. Seguito da spendere con la lente. Ma così è rimasto, eh. Ok, potrei aver fatto. Fai un passaggio un po' più lungo, che mi sembra un po' basso di radio. Allora, sto provando a regolare un po' la modulazione interna da questo apparato. Adesso aspetto solo la tua conferma. Guarda che te l'ho mandato, Eugenio. Ehi. Guarda, se ti è arrivato, penso di sì, perché mi segnala che... No, che te l'ho mandato, ma che non l'hai vista ancora. Ti è compressa? Prova, no, hai fatto il passaggio, mi è sembrata buona, però un pochino si è compressa questa situazione. Se a me il segnale non interessa, mi interessa la radio se è chiara e dai, corposa la modulazione. Faccia così che va bene. Perfettus, richiudo tutto. Lascia, va bene. Agito a mezz'ora, tanti saluti a Tino. Ah, è piuttosto buono di nuovo ecco. Beh, ci siamo presi un po' di vista, dai. Poi sono andato anche un po' lontano adesso, quindi sono un po' senza vedere. Andare. Sta facendo il nonno a tempo pieno con mia figlia. Già va bene. Buonasera Tino, Gavino e Eugenio. Buonasera lì. Allora questa che vi saluta e vi augura di nuovo buonasera. Ciao, scusate che siete in verticale, ciao a tutti, buonasera. Riprendi Gavinotti. Break! Ciao Gianni, riprendi tu, dai, fai girare. Dai, buonasera a tutti, ciao Tino, ciao Eugenio, Gavino, poi Carlo, insomma un po' a tutti, dai. Se mi sono dimenticato qualcuno, saluto generale. Avanti Carlo, poi fai girare. Buonasera Giannino, io sono entrato adesso, una mezz'oretta, quattro chiacchiere le faccio volentieri. Ho sentito che c'era Gavino facendo delle prove, Eugenio da Porto Torres e poi Tino, adesso sono entrato io e tu. Avanti Eugenio. Ciao Carlo, ciao doppio scotch. Ben sentiti, buonasera. Ciao Eugenio il genio. E allora, cosa si raccontate stasera? Gavino, cosa bru vendi? Sto provando a fare una baracchella. Baba? Com'è già? È bello? Sì, prova che ti do segnato. È positivo, guarda un pochino nelle tue zone come arriva questa bombetta. Sì, sul più del 9.30, la radio è buona. Bellissimo, grazie. No, mi interessa la radio, non il segnale, la radio che sia bella, chiara. Sì, già è bella, già va bene, dai, è accettabile, è bella. Cava, adesso dici cosa stai usando, che sono un po' curioso. Superstar 3009. Con 747. Positivo, LMB più 4. Kappagatto. Già è bella la radio, si capisce. Va bene. Sì, con Superstar va bene. 747. Il buon Massimo mi ha dato delle indicazioni belle. Grazie Massimo se sei all'ascolto. È finito il vento a Porto Torres. Il vento a Porto Torres? Perché i giorni scorsi c'era un bel po' di vento. La multiservizio è contenta adesso perché gli ha buttato tutti gli alberi a terra e non li devono portare. Aia. Sì, un po' di danni li ha fatti ovunque, anche ad Alghero dove lavoro io. Eucalipti a terra ho visto, insomma. Ce n'era di tutti i tipi. Già ci vuole un po' di tempo così, dai, è tempo suo. Riprendi Gianni, faccia sogna. Ma il tempo suo deve fare danni, capito? Chi non che ha fatto un bel di danni? Come sta andando così? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Una bombetta, io per Smith non ti posso dire cose sicure, però sì, quasi, diciamo, quasi con lo scala. Kappa. E adesso era al minimo della potenza, adesso di nuovo l'ho rimesso normale. Tutto bene. E Giulia. Adesso vediamo un po' come fare questo. Io mi stavo facendo qualche canzone su Star Maker e poi sono venuto in radio, dai. Così mi sono un po' scrollato di dosso tutti questi dolori che ho, perché quando canto la verità mi dimentico di tutto. Poi di nuovo mi dorano i dolori. Vabbè, là, comunque un po' mi sono distratto. E già va bene così, anche io ho un mal di schiena da qualche giorno, ma micidiale, proprio alla fine della schiena, no? Se mi abbasso devo fare piano piano poi a rialzarmi. Penso che sia l'umidità, qualcosa del genere. Ci vuole CRC. Siamo tutti arrugginiti, Carlo. Davvero, non lo dire scherzando. Ogni giorno ce n'è una nuova, cavolo. E cosa vuoi fare? siamo come macchine noi, ci guastano le macchine. Io l'altro giorno mi ho dovuto cambiare la batteria alla macchina perché mi stava dando problemi, e prima che mi lasciasse a piedi sono andato dal meccanico e me l'ho fatta cambiare. Già me lo stavi dicendo ieri, e ti ha fatto un ottimo prezzo pure, dai, già ti è andata bene, nel senso che non hai speso tantissimo se te l'ha installata pure. Sì, sì, ho installato tutto, è una Varta come batteria, quindi è anche buona. Andave, Gavino, allora ci stiamo ampliando. Cosa già? Stiamo ampliando la stazione? No, basta, finish, stop, boom. No, non si può. Va bene, volevo arrivare al punto di potervi sentire di nuovo perché, dai, un po' mi mancava questa situazione. Mi mancava questa situazione, dai. Per divertirci un paio d'ore. Ora vi sta rinnescando. Controllo il tutto perché stavi innescando e però ho uscito il radio. Sì, Gavino, stavi innescando forte proprio. A un certo punto sei partito bene, poi è entrato l'innesco e non ti sentivi più. È positivo. Strano. Oh, Gabriel, ma il cellulare è acceso, ce l'hai? Sì, oggi. Sì, ce l'ho acceso. Ti sto chiamando e non va. Ah, eccolo qua, là. Come segnati il mio numero? Genio, il vento è finito a Porto Torres. Io ce l'ho lasciato al telefono. Sì, perché quando soffia lì da quelle parti pure le navi hanno difficoltà anche a traccare, insomma già ne fa di ritardi e danni. Sì, da cosa? Da Alghero, infatti due voli dirottati su Olbia perché non ce la facevano ad atterrare, talmente era forte. Giù al Varco Carraio ne ha tirato il cancello dai binari, capito, la forza del vento. Il maestrale lì quando entra è micidiale. Cavolo! La forza della natura è quella. Ti sto dicendo, quando noi ieri notte, quel tuono mi ha svegliato di soprassalto, era appena soppitto, cavolo, perché non ho dormito tutta la notte. Mi ha svegliato di soprassalto, cavolo, mi ha vibrato tutta la casa, sembrava un terremoto. Già l'ho sentito anch'io, ero sveglio e stavo andando in quei giorni lì tardi a nanna perché ero di riposo. Grandine, prima è iniziato la pioggia forte, poi ha grandinato e tuonato, ne ha fatto parecchia di acqua. E meno male che ha defluito bene qua, ma nei posti dove ci sono fiumi, torrenti d'acqua e cose, straripa e fa casino e allaga tutto. Il pilota di Hiroshima. Ma non raddoia oggi, così di Bill. Oggi mi ha preso così a cantare. Oh, mamma. E io stavo cantando sino a 2 minuti fa. Ho acceso il mio adesso. Mattino cosa ha fatto? È andato via. Prova radio da Tony, mi sentite? Parla più in due. Senti Tony. Ah, mi senti forte e chiaro? Era la prova radio, vi lascio subito, non mi voglio sovrapporre, cambio. Radio un po' bassina, segnale Santiago 8 qua dalle mie parti. Sì, ok, era per fare una prova radio, ragazzi, vi lascio chiacchierare, chiudo e potete continuare. Scusate il disturbo. Ciao Tony, ho ascoltato la tua chiamata, ho visto che non richiamare. Se abbassa e si alza, immagino sia così Tony, ci sentiamo. C'è Gianni, doppio room, e c'è Eugenio anche da Porto Torres, non so se tu riesci a sentirli. Ma forse sento, ragazzi, forse sento Gianni, per quanto riguarda l'antenna ti devo chiamare, ragione, ero fuori, ero un po' impegnato, sono sempre comunque interessato e ci vediamo, il tuo numero. Fatto, va bene, quando vuoi non c'è problema. L'antenna è nuova, mai usata. Sì, l'antenna così lo sentiamo più. Perché nel momento si sono in macchina, sono dietro Daniela, lo vedete voi magari dal più di me, vi lascio che scendo. Grazie per Prova Radio, chiudo, buona serata a tutti, un abbraccio. Ciao Tony, ciao, ci sentiamo, buona serata anche a te. Chi è questo Tony? Un cibi nuovo che è tratto, dai, che si sta piazzando tutto in macchina e vabbè, deve mettere l'antenna più grande, eccetera. Va bene, non a casa, in macchina. Macchina, macchina. Barra mobile. Non fa barra, va. Aiuto, Luigi, ti riprendi. Perché stai uscendo così da schifo già? Sto uscendo da schifo. No, no, adesso forse hai attaccato sotto la bocca al microfono. È vero, sì, ogni tanto me ne dimentico l'attacco. Vabbè, lo so che fa così, quando lo attacchi questo qua si sente troppo forte, sembra blu, perché questo è amplificato, capito? L'altro che c'avevo era normale, era abituato con quello, prima di mettere questo qui avevo la normale, ne ho uno io di microfono che ho fatto io, G, che è normale ma esce con una radio allucinante. Sì, andava bene, io ho sempre il DM1000. Sempre qua, dentro la scatola, proprio nuovo. Io il DM1000 oggi gli ho cambiato la capsula, gli ho messo la capsula di un microfono di altri tipi, di un microfono da tavolo. Ma lo sai come ti esce? No, quello del DM1000 è quello che usavo quando avevo il furgone, che modulavo al furgone, questo è una radio allucinante. Va bene, Gavino. Gli attacchi per il 2009. Scusa oggi, stavo facendo cosa, non ti ho copiato. Scusa. Ho detto che io ho il DM1000, il microfono palmare, che usavo quando modulavo dal furgone. Gli attacchi del 2009. Usciva una cannonata col microfono. Deve essere bello, deve essere bello. No, io sono arrivato, io sono a posto, perché va bene così. Va bene così, tutto positivo. E niente, già avevo risolto anche quel problema dei picchi negativi che mi dava la radio. Lo sai cos'è? Il PL che ti dava problemi, si era sciolto la parte centrale, quella bianca si muoveva. No. Questo microfono con la batteria scarica, la batteria me lo dà, capito? Non c'è la picchi negativi. Un po' allucinante, ma capisci certe cose. Comunque Gavi, il DM1000 è quello che c'ha Eugenio, per intendersi, è quello che ho usato io ieri, che ho fatto la chiamata, ho detto ecco a voi Gavino, quello lì che tu mi hai toccato, ne ha ecco. Sì, lo conosco io, cioè lo conosco, l'ho visto e non l'ho mai avuto. Io avevo un Intec con l'Echo, era amplificato per Valetto, era malato, non mi ricordo la sigla. Ma da tavolo? No, negativo, palmare, un palmare era nero, Intec, non mi ricordo che sigla era. Era quello che usavo io quando avevo il 548, quando avevo iniziato, capito? Niente, che faceva dei bei microfoni prima, ne faceva anche uno con la gratta in coso, in alluminio, e andava bene anche quello lì, io lo usavo in macchina, poi l'avevo dato tutto quanto, avevo modificato anche l'apparato e l'avevo venduto tutto al gruppo CB di Porto Torres, che allora era dove c'era l'Arena Rida lì, e praticamente l'ho dato a, non mi ricordo come si chiamava, quello con i baffetti bassottino che faceva l'autista di camion, che adesso è morto, non mi ricordo come si chiama, l'avevo venduto a lui. Sciaboletta al baracchino, siamo un'anima di mali, quindi il cognome. Ehi, però di nome non me lo ricordo come si chiamava, aiutami, che abitava a Satellite. Ehi, già ho capito chi è, non conoscevo di persona, ma io ci andavo sempre alla serie CB, per esempio in Kiwi. L'avevo venduto quell'Intec che c'era, lui ha detto che lo metteva lì in sede. L'ho venduto io, l'Intec FM500S modificato da me, e poi c'aveva anche quel microfono che tutti mi dicevano ma con quanti watt stai uscendo, e invece io c'avevo sempre quel microfono con quel baracchino, usciva forte da tutte le parti. Esatto, era l'Intec il 400 quello che c'è io, quello nero, con la scritta rossa. Capa, ho capito qual è. Sì, sì, io ce l'avevo quello. E usciva forte il microfono. Ehi, alla Inter che faceva sia dei bei apparecchi che anche bei microfoni. Ne ha fatto sempre i microfoni che uscivano molto bene, anche da tavolo ne ha fatto belli. Poi boh, si è messa la Inter che non si è più sentita, è andata fuori, forse come non c'è commercio boh, di queste cose qua. A Sassari se avessero messo un tecnico che vendeva anche apparati si sarebbe fatto d'oro, perché è un bravo tecnico, perché tutti quando hanno bisogno così vanno lì tranquilli, sarà a Sassari, invece non ce n'è uno che faccia questo lavoro, uno che venda questi apparecchi come si deve, non scatolette come li vendono certi negozi. Vabbè, Carlo, avanti. Sì, sì, no, la Intec, ne ho avuto tante io di radio Intec, sempre buone radio. Approfitto dell'amico Eugenio che mi deve dare un controllo come arrivo di segnale lì da quelle, in quelle coordinate, perché ieri Mario mi ha detto che con 4 watt diciamo era a livello di QRM. Come mi senti Eugenio? Ma dov'è un controllino per cortesia? Il segnale di radio, la radio è 5, il segnale è 5 lo stesso qua. Sto uscendo con 4 watt, sto uscendo basso basso, però già va bene, dai, se arrivo sin lì già va bene. Ho voglia, io ti ascolto benissimo, Carlo, senza nessun problema. Carlo, ma tu dove sei? Io sono a Sassari, a Luna e Sole, alto, all'altezza del Bulling precisamente. Ah, così. No, non arrivo bene a casa, non arrivo bene a casa. Radio, chiara. Bella. L'apparato stai usando? Di solito Albrecht AE 5890, diciamo si possono regolare i watt, così con 4 non disturbo, perché qualche disturbino lo stavo facendo, non TVI ma casse di computer. Boh, non lo conosco con l'apparato, cos'è un Albrecht? Alfa, Lima, Bravo, Romeo, Echo, Charlie, Hotel, Tango, Albrecht, tedesco diciamo, ma diciamo è Intec praticamente. Ah, ho capito. No, esce bene, è bene, è molto bene, molto molto bene. Ce l'ho già un annetto e diciamo che va bene. A volte uso qualche aiuto, ma quando vado in banda laterale, in quelle coordinate là, capito? Però per la città qua va bene quando esce con 4 watt. Sì, sì, sì, sì, sì. Guarda, io uso l'aiuto perché c'è di radio, guarda. Un po' si è abbassata adesso, è come è toccato. Sì, sì, si è abbassato il segnale anche la radio, E però tu considera che io sono in una zona molto negativa, Io sono in una zona molto molto molto negativa. La ricordi Gavi più o meno, Scusa? Ricordi la tua zona più o meno, ho detto qua, da dove sei che trasmetti? E io sono diciamo nella strada vecchia di sotto, capito? E io sono nella strada vecchia di sotto, nella sotto dopo la fine. Ho capito. E evidentemente lì c'è qualche collina, qualcosa del genere, perché con Sorso diciamo già ci sentiamo bene, dai. Evidentemente è la tua zona, però se metti quell'aiutino già vivi bene tranquillamente qua. Passando nella strada. Siete sovramodulati, Ho detto Gavi, passando nella strada si vede l'antenna che hai messo. Sì, si dovrebbe vedere, da, si vede tornando a Porto Torre, tornando non si vede. Io sono anche alto, io c'ho un pino enorme, io dico, a 20 metri davanti. E magari è quello che ti ostacco. Io ti ascolto male, ti ascolto basso adesso, prima eri bello forte, cos'è tu caldo? Guarda a vedere se mi ascolti bene adesso. Ah, ma sì, cosa hai fatto? No, ho abbassato appena il volume passato per capire, dai. Infatti mi avete confermato che andava male. Adesso va bene, adesso è la tumulazione. Facciamo fatica a sentirti. Male no, ma è più presente quando è fatto il secondo passaggio. Questo? Praticamente il secondo passaggio ha cambiato da oggi a domani, dai. O dal giorno alla notte, come vuoi dire. K, sì. Diciamo che la modulazione era più bassa, poi come tu hai attaccato sei bello presente, sembri qua davanti a me. No, avevo il microfono. Diciamo ho abbassato il volume del microfono, ho capito, e per vedere se notavate la differenza. Infatti si nota, ho avuto conferma. Niente, però qua mi arrivate tutti bene, vabbè, tranne Mario da Porto Torres, che magari non lo so, però qua grazie a Dio mi arrivate tutti bene, tutti forte, con ottime radio. Ma dimmi una cosa, ma tu stiamo usando al garage? Positivo. Ci siamo io e i miei due cani. Ho capito, ma non fa freddo. Io qua c'è più caldo qua che dentro casa. No, io qua le volte in legno e... No, non è freddo. Tu pensa che per fare il muro, per fare il buco nel muro, per passare il cavo dell'antenna, quelle punte che vengono da Lido, quelle lunghe, per poco non ce la faccio a fare il buco, tutto in un colpo. Muri spessi e niente, c'è che io ho trattato l'audio qua, capito? Non c'è neanche umidità qua dentro. Ma allora già sta bene. E ho la porta aperta, Ma è comunicante con la casa, sì? No, non sono comunicante con la casa. Magari, perché se... Se apro la porta vado in camera da letto. Senta, cucca, ti lo mando a vedere. E mi sembra che mi allungo mai. E me lo metto nel letto. No, va bene per un garage, perché altrimenti poi a casa la bambina che gioca, televisione accesa, e non riuscirei a fare niente. Qua sono in silenzio e riesco a passarmi un'oretta o quel tempo che è, tranquillo e senza alcun problema. Perfetto. Via, stasera pizza. E mi sa che anche io ti seguo. Ieri sushi. Beati voi, io stasera brodo. Ecco, Maro, io mi sono fatto una cioccolata dopo pranzo, perché era freddo, mi ho fatto una cioccolata, mi ho messo un po' di panna sopra. Oh! Cavallo goloso! Io col cavallo! Ai. E mi ha scaldato, la verità, mi ha scaldato bene. E a chi ti è stata la glicemia, io ho grido. Ma tu, io ho preso le pastiglie subito, dopo che l'ho mangiata, subito ho preso le pastiglie, perché dovrei prendere due pastiglie e poi fare l'insulina, non la sera dopo che mangio. Invece le pastiglie me le prendo prima, quando io arrivo a mangiare mi misuro la glicemia, ce l'ho 120, 115. Ehi, fai. Io appena sono entrato ho fatto un panino, 189 ce l'ho adesso. Comunque. Si va, piano si va avanti. Riprendi Eugenio. Ma l'hai scoperto da poco, cioè, o sei diabetico da tanto? Guardi. 8 anni ce l'ho io il diabete. Faccio 8 anni il 13 febbraio del 2023. Loro tu hai balle, dopo ci fai l'abitudine. Sì, no, ma io guarda, ti posso dire una cosa, che ormai è diventata quotidianità, capito? C'è gente che la prende male, io non l'ho presa male, anche perché non mi abbatto per le cose, non mi nacuti proprio nulla giù. Addirittura io ho pensato, meglio che sia avvenuto a me che per esempio cosa ne sono nato da una famiglia, perché io ho le spalle larghe, non me ne appunti nuda e forte. Secondo a chi viene la prende anche male. Bravo Gavino. Io all'inizio l'ho presa molto male, Gavi, poi ci ho dovuto convivere per forza di cose, però all'inizio l'ho presa male, ti dico la verità. No, male, no Gianni, perché ti ripeto, ci sono altre cose molto peggio di quelle. Quindi la scienza sta andando avanti, la medicina lo stesso, e grazie a Dio hanno inventato questo sensore che ci aiuta tanto, tanto, tanto, tanto, e può permetterti anche di fare qualche traviglio. Mangiando, dico, ma perché poi io mangio tutto, non me ne affrutti nulla, io boppo insulina e mangio tutto. Sì, ma questo sensore c'ha un ago che entra dentro la pelle, così è, così funziona, perché ne sto vedendo tanti col sensore attaccato al braccio dietro. Sì, sì, ha una specie d'ago che dovrebbe essere, che è la sonda, dai, ma tu non lo senti quando entra, tu non lo senti perché c'è un macchinario che è a scatto, e te lo appoggia al braccio, l'inserisce, ti legge in tempo reale l'insulina, capito? Cioè la glicemia. Ed è una grandissima cosa questa che hanno fatto. Non è più come prima dove devi pungerti il dito, fare qua 10 10 10 10, sembra che non ho niente, capito? È meglio così. Ne ho visto tanta gente con questo sensore attaccato al braccio, e vabbè, piano piano la scienza e la ricerca stanno andando avanti, speriamo. Gavi, spiegami questo sensore, perché io non ce l'ho, dico la verità, io mi pungo il dito, mi sto continuando a pungere il dito. Parla con la tua diabetologa, te lo fai dare. Dove parli, dici, guarda, io non riesco più a regolarmi con l'insulina, e ti danno il sensore, te lo metti nel braccio, 15 giorni dura, e ti cambia la vita, guarda, ti cambia la vita, Gianni. Io non pensavo, il primo periodo era macchinoso perché avevi risultati sballati, però poi ti accorgi della linearità e di quanto migliori, anche, ma in 3 mesi migliori tanto. Ma cosa fa questo sensore qua? Ti regola l'insulina, ti dà l'insulina da solo, oppure ti dà solo la misurazione? No, ti dà solo la misurazione, cioè lui ti dice che hai la glicemia 180 in salita, 180 in rapida salita, o in rapida discesa o in discesa, capito? Al contrario. Quindi tu in base a quello inizi a fare la correzione, per esempio se c'è la glicemia a 90 in discesa ti mangi, cosa ne so, ti mangi una caramella o ti mangi un pezzo di pane, e pian piano te la porta stabile. Poi se vi resta salendo ti fai il boletto di, ti fai una unità di insulina e te la tieni sempre normale, capito? Sicuramente ti sale perché anche qualche emozione, l'incantatura te la fa salire, però la tieni bella, la tieni stabile. Io ho la glicata 5,4. Va bene. Ma è una cosa fissa, tu puoi guardarla direttamente, oppure c'è qualche app dove si appoggia il telefono per sapere la misurazione? Ti danno sia il macchinario loro che tu lo scansioni e ti dà la misurazione, e c'è anche l'app che te la scarichi nel telefono, e di notte ti dà gli allarmi se scende troppo o se sale troppo, capito? No, è una cosa assurda. Ho capito, no, io non l'ho mai, cioè me l'aveva proposta e gli ho detto di no, che poi magari mi dava fastidio lavorando e facendo, mi dava fastidio, ho rifiutato io, la verità. Anzi, a me mi voleva dare quella che ti dà l'insulina in base alla glicemia che c'hai, tu ti attacchi questa cosa, ti dà l'insulina, capito, da sola, in base, per dire, se tu c'hai la glicemia alta ti dà più insulina, se ce l'hai bassa te ne dà di meno, la misura da solo, capito? Il microinfusore. No, ma fatelo dare perché è 10. Fatelo dare perché è 10. 10 più. Oh, Ioia. Riprendi Eugenio. Ti volevo fare una domanda. Scusami se sono un attimino impertinente, ma insomma, mi incuriosisce questa cosa. Ma ha una durata questo sensore? Non è un sensore che ti metti e ce l'hai sempre, ha una durata? No, ha una durata di 14 giorni. Ha una durata di 14 giorni e puoi fare tutte le scansioni che vuoi. Poi la macchina ti segna, la macchinetta ti segna che per esempio ti dà un allarme e ti dice fra 3 giorni ti scade il sensore. Poi quando arrivi alle 24 ore ogni volta che scansioni te lo ricorda, capito? e fai 14 giorni in un braccio e 14 giorni nell'altro. E basta. No, non è niente di impegnativo, non è niente di impegnativo. Però ti posso dire una cosa, che io a forza di pungermi le dita, quando non avevo questo sensore, avevo le dita viola, viola, viola. Così sono rinato. Sì, ma ogni 14 giorni devi andare dalla diabetologa, così è, per questo sensore. No, l'interesse è stato un momento perché io, mia madre, che è diabetica, capito? E ogni volta lei si pungeva il suo dito per vedere un po', perché li hanno scoperto da poco. Ogni 14 giorni devi andare dalla diabetologa per cambiarti il sensore. No, no, te lo cambi tu, te lo cambi tu, ti danno la scorta di 3 mesi, capito? Vai in farmacia, pure il tuo piano terapeutico, ti danno la scorta per 3 mesi e te lo cambi tu. È una stupidaggine, è adesivo, è una cosa adesiva che prende, te l'attacchi, è plastificato sopra, è grande quanto 2 euro, capito? E te lo cambi tu. Non ti danno la scorta per 3 mesi, prima era 2 mesi, adesso è 3. Ottimo. È ottimo, è ottimissimo, va benissimo, va benissimo. Grazie Gabri, grazie, scusa se sono stato un attimino un po' discreto, magari fra queste cose. No, a me no, indiscreto, e di cosa? No, non stiamo rubando, a me, io ne parlo tranquillo, a me non mi interessa, io sono... Però ti ripeto, a me non mi è proprio pesato di niente e non mi accorgo, perché non... ci sono cose, guarda, molto più gravi, ci sono cose molto più, con questa cosa puoi convivere. L'importante è che non dai picchi di glicemia a 300, queste cose qua, perché altrimenti a lungo andare ti può causare problemi cardiovascolari e queste cose qua. Però c'è gente che c'è 50 anni diabetica, ti segue, e non con le cose che ci sono oggi. Non devi superare i 200. No, andate, dai, andate. Capito? Prendo io. 200, non devi superare i 200. Ma già, la cosa che dà problemi è quando arrivo, io vedo gente... cioè da, che si fanno l'insulina, mangiano, si ha la glicemia a 480, poi si fanno nuovo l'insulina e gli scende a 60, poi torna a 400 e verso 50 anni diabetici. Cioè, no, importante è già, non lo so, dipende anche dal fisico di una persona. Ma bisogna conoscere anche gli effetti che fa l'insulina. L'insulina, se tu ne metti troppa, agisce sui reni e ti fa diventare ti ammala i reni, capito? Ti fa ammalare i reni. Non è così, non è che uno si fa più insulina perché vabbè, una volta può succedere, ma se tu lo continui a fare continuamente così si rovina i reni, capito? Perché l'insulina agisce sui reni e poi devono fare la dialisi pure. Quindi è sempre meglio stare chietti. Ascolta, ma il corpo umano di una persona non diabetica, ogni volta che mangia, l'insulina agisce? Certo, certo che agisce. Se il pancreas funziona, agisce. Noi abbiamo il pancreas che funziona in parte, per quello che noi abbiamo bisogno dell'insulina. Ecco, ti ho dato la risposta da solo. Una persona che non ha il diabete funziona il pancreas. Una persona che ha il diabete, il pancreas non funziona e l'insulina la devi iniettare dall'esterno. Quindi il problema è il reni, lo sai quando succede? Quando non fai l'insulina, perché se tu fai l'insulina è come che sei una persona normale, il problema è non fare l'insulina, mi segui? Perché quando, perché il, diciamo, il nostro pancreas, il nostro fegato va ad agire su delle cellule che ti mangia tutto, agisce su quelle, prima di tutto sulle sue, mi segui? E non fare l'insulina. capito, ma l'insulina che produciamo noi è una cosa naturale, l'insulina che tu ti inietti è una cosa chimica, è molto diverso, Gavi, lascia perdere. Avanti Carlo. Ho capito, sì sì, tutto interessante. Sì, Gavino ha ragione, perché non sfruttare, diciamo, queste novità. Gianni, quello che dicevi tu è il microinfusore. Io ne so due righe, perché quando facciamo i controlli passano sia quelli che hanno il sensore che dice Gavino, che ce l'hanno sul braccio, ma quello non crea nessun problema anche attraversando il portale, no, ai controlli di sicurezza. Mentre invece i problemi li crea il microinfusore, che lo devi avere collegato, capito? Quello ti praticamente ti regola l'emissione dell'insulina nel tuo corpo, capito? Però è più ingombrante, una macchinetta quanto un pacchetto di sigarette più o meno, diciamo è meno pratico, diciamo, lo puoi anche urtare, danneggiare. Invece questo sensore che dice Gavino mi sembra molto molto pratico ed efficiente, anche perché dopo 14-15 giorni te lo cambi da solo, ti danno il kit che dura 3 mesi, in effetti non devi stare a bucarti più le dita, capito? Mi sembra ottimo. Ragazzi, io devo uscire, perché poi passo a ritirarmi anche le pizze che le ho ordinate, devo fare un'altra commissione, quindi vi saluto, mi ha fatto piacere sentirvi, domani magari se ci siete ci risentiamo. Ciao Gavino, ciao Gianni, ciao Eugenio, un saluto a tutti quelli che stanno ascoltando, alle prossimine, ascolto il finale poi chiudo. Ehi, allora, ciao Carlo, ci sentiamo, buon appetito quando mangi le pizze, poi ci faccio pensierino anch'io. Avanti Gavino. Ciao Carlo, ci sentiamo alle prossime, e grazie della bella serata, dai, stammi bene, vai Eugenio. Ciao Carle, ci sentiamo tutto quanto alla prossima, ciao! Ciao Tocchio, che è arrivato il mio panino, ciao, a più tardi se ci siete, come prendo? Andiamo, andiamo, cacchiauro! Numero gasista, ciao ciao ciao a tutti, ciao Carlo. Vedo Gasino, ciao Eugenio, ciao Luca, sentito, avanti, e ciao anche a Tino, avanti Luca. Attenzione Tino, passa la palla. Ciao, ma qui sì, o scemo o scema, vabbè, ho trovato adesso incrociato di quella persona che stavamo parlando poc'anzi, sono rientrato adesso. Scusati, che c'ho questo qua che sta abbaiando qua dentro, mi fa di soli. Ah, Giovanni ha trovato adesso portando il cane in giro. Ah, vero, poi non dire. Lì dove c'è il Sirio, sono andato a prendere a mio figlio, a ritirarlo, dai, ciao. E l'ho trovato passeggiando con i cani. Oh, scusate, avete letto la notizia di quello di Atti, che ha camuffato in tutto e per tutto la sua Toyota, una Ferrari, è stato fermato e denunciato. Ok. Oh, vabbè, a più tardi, ciao. Bullet diceva un banino, no, voglio una va, mio e mamma, ciao ciao. Ciao ciao. Beh, riprendo io anche io, dai, devo mollare che devo preparare il rancio. Sono entrato, mi sono salutato a Carlo e a dirti quest'info che l'ho trovato in strada, in giro. Va bene, dai, capito, ti rilancio il mic. Ciao Gianni, ciao Luca, ciao Gavino, ciao a tutti gli eventuali ascoltoni. Correti da parte mia, dai, riprendi, capito. E Iatino, cosa ti ha detto? Va bene, ti dai, ci sentiamo alla prossima, buona serata, buon tutto, basta, tanto bene, ciao. Grazie, ciao ciao ciao a tutti. Ciao Tino, ciao anche a Gianni e a Gavino, avanti già. Ehi, allora, ciao Tino, ci sentiamo, ciao anche Eugenio, dai, buona serata, ehi, avanti a chi tocca. Ciao Eugenio. Voglio farvi una domanda, non so se avete più sentito a Giovanni di Platamona, io non l'ho più sentito, non è che voi l'avete sentito per caso? No. Boh, ci stavo pensando stasera che non stava più entrando. E chi è? Giovanni, uno che modula dal terzo pettine, diciamo vicino al bivio di Platamona dei pettini. Ah, buono, buono, buono, buono. Giovanni Stanco si chiama, di nominativo. Non lo conosco. Mi sembra che anch'io vado, che è arrivata la cucciola, che sono un po' giovane, non la vedo già. Infatti, dai, fai un po' stare con la famiglia, dai, che sei staccato adesso è un po', se no li trascuro. Eia. Va bene, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao Luca, non ti ho salutato quando sei entrato, ben sentito. Io vi lascio perché vado a stare un po' dai con loro, che è tutto il giorno che non li vedo. Ok? Dai, buona serata a tutti e ci sentiamo alle prossime. Ciao Gavi, ci sentiamo, dai. Un bacione alla puppa, è bellissima, eh. Grazie già. Ciao ragazzi, alla prossima. KK, ciao. Avanti Luca. Sto cenando già, sono appena arrivato da Olbia. Da Olbia sei arrivato. E cosa ci facevi a Olbia? Sempre in giro, sì. Come fratello ci avevo fatto una visita. Ah, vabbè, allora ti lascio, dai, che io vado, ordino le pizze e stasera mi mangio la pizza, perché non ne ho voglia di cucinare e non ne ha voglia manco Elena, sicuramente, che è stanca, che stava facendo un po' di lavori qua, e ci mangiamo una pizza così almeno non stiamo a lavare piatti e fare. E io, ciao, buonasera. Ciao, buona serata, ciao. Ora, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova.